Capitolo 17. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio Onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: «Quanto a me ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te, e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan, in possesso perenne, e sarò loro Dio». Poi Dio disse ad Abramo: «Quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sia circonciso. Sarete circoncisi. Questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni, ogni maschio sarà circonciso tra di voi, di generazione in generazione, tanto quello nato in casa, quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero, e che non sia della tua discendenza. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso. Il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne. L'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente. Egli avrà violato il mio patto». Dio disse ad Abramo: «Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai. Il suo nome sarà, invece, Sara. Io la benedirò, e da lei ti darò anche un figlio. La benedirò e diventerà nazione. Re di popoli usciranno da lei». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, rise e disse in cuor suo: «Nascerà un figlio a un uomo di 100 anni, e Sara partorirà ora che ha 90 anni. Abramo disse a Dio: «Oh, possa almeno Ismaele vivere davanti a te». Dio rispose: «No. Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio, e tu gli metterai il nome di Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, io l'ho benedetto e farò in modo che si moltiplichi e si accresca straordinariamente. Egli genererà 12 principi, e io farò di lui una grande nazione. Ma stabilirò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questa stagione il prossimo anno». Quando ebbe finito di parlare con lui, Dio lasciò Abramo, levandosi in alto. Abramo prese suo figlio Ismaele, tutti quelli che gli erano nati in casa e tutti quelli che aveva comprato con il suo denaro, tutti i maschi fra la gente della casa da Abramo, e li circoncise in quello stesso giorno, come Dio aveva detto di fare. Abramo aveva 99 anni quando fu circonciso. Suo figlio Ismaele aveva 13 anni quando fu circonciso. In quel medesimo giorno fu circonciso Abramo e Ismaele suo figlio. Tutti gli uomini della sua casa, tanto quelli nati in casa quanto quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui.